I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Salvatore Padula. Comincia oggi una settimana in cui l'agenda degli appuntamenti subirà a più di una variazione dopo gli attacchi terroristici di Parigi. È quel che accade per esempio con la riunione straordinaria dei ministri degli interni dell'Unione Europea, convocata per venerdì prossimo a Bruxelles su richiesta francese, per discutere di emergenza terrorismo e per discutere del pacchetto di misure per la sicurezza, finalizzato a facilitare lo scambio di informazioni tra le forze di polizia dei diversi paesi. Gli attentati parigini però avranno probabilmente impatto anche sulla nostra legge di stabilità, nel senso che a questo punto il governo sembra orientato a destinare più risorse alla sicurezza interna, alleggerendo i tagli previsti per i ministeri della difesa e degli interni. È possibile però che questo tema verrà affrontato alla Camera e non al Senato, dove già entro fine settimana la legge di stabilità otterrà il primo voto parlamentare per essere poi inviata alla Camera dei Deputati. Al Senato sono attese modifiche. Proprio ieri la Commissione Bilancio ha messo a punto un corposo pacchetto di emendamenti, ma è evidente che la vera partita sulle correzioni alla manovra 2016 si giocherà alla Camera, dove peraltro il governo può contare su una maggioranza ben più solida rispetto a quella risicata del Senato. Quindi le modifiche più importanti, si parla di pensioni, di sanità, di conti delle regioni e ora appunto anche di nuovi fondi per la sicurezza, si dovrà attendere fino a dicembre inoltrato. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alberto Orioli. L'Istat comincia a fare chiarezza sulla nebulosa delle cosiddette partecipate pubbliche, un agglomerato di aziende e società che vale quanto una grandissima multinazionale. Nel 2013 erano 10.964 le partecipate pubbliche in Italia, con oltre 953.000 addetti complessivamente. Ben più della metà, il 57,6%, è partecipato dal pubblico per una quota superiore al 50%, la dimensione media di 119 addetti e la forma giuridica prevalente è la SPA. Al netto delle attività finanziarie e assicurative, le controllate pubbliche generano oltre 57 miliardi di valore aggiunto. Alcune effettivamente agiscono come fossero aziende di mercato, ma sono ancora la minoranza. I settori che generano i volumi maggiori di utili sono la fornitura di energia elettrica e gas e i servizi idrici e gestione dei rifiuti. Altre volte invece si tratta di aziende che operano in settori di monopolio e spesso utilizzate a fini più clientelari e politici che non di mercato. E non è un caso, ad esempio, che nel settore dei trasporti locali si generino i maggiori volumi di perdita, pari a meno 180 milioni. Non è neanche un caso che le aziende partecipate direttamente dalle amministrazioni locali, con quote superiori al 50%, siano oltre 4.700, con più di 660.000 addetti, quindi la stragrande maggioranza. Per non parlare di cosa significa questo in termini di consiglieri di amministrazioni e di relativo gettone di presenza, che sono alcune decine di migliaia. Spesso quindi si tratta di stipendifici e non deve dettare scandalo se la Spending Review considera quello delle partecipate il settore dove si può ancora tagliare di più. Peccato che ancora questo non sia stato fatto. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.